Buongiorno a tutti, è il 10 marzo, sono le 21.08, secondo giorno di zona rossa proclamata in tutta quanta l'Italia. Si vocifera che il governo farà uscire un nuovo decreto per la chiusura definitiva di ogni esercizio commerciale. Potrebbe essere un'ottima mossa andare a verificare che questa cosa sia successa o meno, perché al momento era solo ipotetica. Abbiamo poco fa nella diretta ospitato una compagna di nulla di meno, Marta, che ci ha raccontato un po' meglio dello scorteo transfemminista globale chiamato per la giornata dell'8 marzo. Uno scorteo transfemminista chiamato per adattarsi alla necessità di curare e prendersi cura dei soggetti fragili in questo momento di infezioni. Lo scopo era comunque quello di portare la propria presenza in giro per la città, ove possibile, o anche semplicemente nella quotidianità delle nostre case, con dei cartelli, dei messaggi che ci ricordassero a tutti quanti l'importanza di lottare per i diritti delle donne, di chi si risente tale anche se non lo è biologicamente, e di tutti quei soggetti che vogliono una società diversa fuori dal patriarcato contro il macismo. Adesso, mentre Fergi prende parola, io vado a bolle spartirchi. Sai che comunque questa partiracali di merda, guarda, ci soffrono anche noi, e ci portano anche noi i maschi. Sai che siamo reduci adesso. Guarda che mi sa che non ti si sentiva l'ultima cosa che hai detto, non si è sentita? Sound check. Ok, quando vedi qua le lineette vuol dire che ti si sente. Perché c'è il coso che... Basta che lo tocchi da una parte o dall'altra e si sente. Sound check, ecco. Adesso ci sei. Parlando del maledetto patriarcato, della merda umana, e anche noi maschi soffrono di questo, cioè... Si fottono tutti di questa mentalità. In realtà ieri, no, il giorno dopo del Women's Day, International Women's Day, ho trovato un video di Vice, nel Vice Asia, con questo documentario del matriarcale in Cina. Cioè, è bellissima. La figa domanda, raga. Anzi, ho capito cosa hai detto, ma mi sembrava un po' vagamente strano. Prova a ripeterlo. La matriarcale, cioè la figa. Tell me in English, because I think it's better. Oh, okay, it will be better. Okay. I watched a video from a documentary of Vice Asia, which was talked about the matriarchy. So nothing about the patriarchy. Matriarcale. Matriarcale. È bellissimo, cioè maggiormente le donne non è proprio contrario, cioè solo che c'è una parte di che c'è una donna che parla soltanto di produrre, cioè lì vivono sempre nella sostenibilità. E c'è una scena che ha parlato della donna che loro non è cazzo, it's not their work to kill or to destroy things. Ok. Cioè, non hanno la voglia di anche ammazzare una gallina. Ma parla in inglese se ti riesci. Non è mica un problema. Ok, no. Sometimes I speak Italian or Italian language or Italian English. Also Spanish if you want. Beh, magari. Magari. Neanche eravamo conquistati questi maledetti ispanici. Ecco, esatto. Ma non ho imparato. E comunque. Posso proseguire un attimo? Vai. Perché siamo andati sulla... Ma comunque viva matriarcale. Viva matriarcato. Matriarcato, scusami. Grande effetto. Allora, siamo andati sulla pagina della Presidenza del Consiglio dei Ministri, purtroppo per noi, ma non per voi. E niente, abbiamo verificato che il nostro fantastico Presidente del Consiglio ha firmato il provvedimento in data 9 marzo, che estende la zona rossa dalle province dell'8 marzo e dalla regione Lombardia a tutta quanta l'Italia. Quindi per ora non si parla di chiusura totale di tutti gli enti commerciali, tutte le attività eccetera. Rimaniamo semplicemente sul divieto di assembramento, di assemblea, di sciopero. Quindi potete tranquillamente ammalarvi andando a lavoro, ma non potete scegliere di ammalarvi scioperando in corteo. Ricordiamo comunque che oggi i lavoratori di Pomigliano d'Arco sono scesi in piazza per reclamare appunto la necessità di fermare la produzione per evitare ulteriori contagi. Va bene, siamo a questo punto arrivati forse al piatto forte della serata, che è il terzo articolo dei Wu Ming nei diari virali. Sarà un articolo lungo, per cui preparatevi. Ogni tanto faremo degli intermezzi con il nostro fantastico Fernando. Comunque, Guglio, mi sono dimenticato questo articolo di finire. Cioè, vabbè, com'è? Come vogliamo fare, Fergi? Vuoi... Bravo. Dai, finisco... lo rileggo? Tutto, no? Vabbè, aspetta. Questa teoria del complotto. Dai, teoria del complotto, ti diamo un po' di tempo, dai, hai 8 minuti, hai 8 minuti. Questo 8 pezzo minuti. È il prossimo, quando il prossimo quando finisce poco. Long Arm of the Law, sei finito anche tu. Sono poche righe, ma inizio. Vai, vai, vai, vai, io mi spengo così non ti posso nemmeno interrompere. Teoria del complotto, cioè questo articolo è del virus messicano, il virus messicano che nel... rivista internazionale nell'aprile del 2009. Teoria del complotto. Ma perché è scoppiata questa epidemia? A casa la gente ha tutto il tempo di lambicarsi il cervello. La strana influenza suina sta facendo fiorire le teorie del complotto. Virgola. È una strategia del governo per farci dimenticare la guerra delle droghe, virgola, dice Luis Pablo, impiegato del Ministero della Sanità. È un affare colossale per le industrie farmaceutiche, ribatte la grafica Renata Gonzalez. Un tempo il Messico produceva vaccini, ma ora ha perso la leadership in questo mercato, virgola. Per riconquistarla serviva un'epidemia, ha detto un esperto alla TV. Ok. I messicani non si fidano del governo, ovviamente. Alcuni vogliono perfino rifiutare la vaccinazione obbligatoria. Qualcuno dicono potrebbe usare i cittadini come cavie per sperimentare dei farmaci. Finito. Aspetta. È questo il column della teoria del complotto. Non lo so, stiamo parlando del 2009 a Messico, ma direi tutti i fatti. I think it's the same scheme, la stessa schema, la stessa procedura, la stessa programma. E siamo sempre nella sala di attesa, ma siamo sempre resistenti. Ci è piaciuto anche adesso, Fergi, sei stato veramente fantastico. Prova a parlare così vediamo se io posso fare questo coso. Ok. No, quasi. Allora, noi vorremmo far presente, però. Parla, Fergi. Però guarda, sto mica. Non voglio parlare tutto il tempo così, se no mi prendi il stiff neck, la storcia cosa che cazzo. Più che altro la questione è che vorremmo ringraziare quel grandissimo compagno di Lorenzo che ha portato questo mixer storico bellissimo suo, che cioè funziona una chiavica, non si capisce una mazza, e sto cavolo di fader devi tenerlo premuto con un dito, se no non funziona. Prova a parlare, Fergi, perché no. No, niente da fare. Prima. Ho capito, poi tu l'hai toccato dentro 30 volte. Così funziona, devi spingerlo verso sinistra. Vai, vediamo, lascia. Vediamo. Ok. Ok. Ci siamo. Abbiamo incantato, abbiamo fatto così, la magia. Lasciamolo così e non tocchiamo sì, più. Sì, il problema è che adesso tu sembra che stai parlando su un'astronave. Però sì, è un po' ho la bocca un po' vicino. Tu riesci a equalizzarti i livelli senza vediamo. Toccare sto feder sì, maledetto. Sì, vediamo. Non toccare feder, Fergi, sennò ti giuro che non ti pago più. Io sono questo qua. Va bene. Siamo pronti. Tu fai quello che vuoi, intanto magari dimmi qualcosa. Adesso andremo ad abbassare leggermente la musica, perché iniziamo appunto con l'articolo dei Wu Ming. Siamo su Jap, il blog dei Wu Ming. Abbiamo già letto i due articoli precedenti del diario virale. Vi leggiamo oggi diario virale 3. Contro chi sminuisce l'emergenza dal 1 al 10 marzo 2020. ai caduti di Modena nell'anniversario dell'uccisione di Francesco Lo Russo. A est la luna piena abbagliante, a ovest Venere risplendente, a sud-ovest l'elicottero ronzante, a nord la nebbia che s'alzava dallo scolo calamosco, a sud il carcere della Dozza, con i Colli e San Luca sullo sfondo. Il carcere era in fiamme, erano le 11 di sera. Avevamo girato i posti di blocco su via del Gomito, imboccando stradelli che conosceva solo Wuming 2, ed eccoci in piedi, in mezzo a un campo arato a 100 metri dalla recinzione del carcere. Eravamo visibilissimi, per via del Plenilunio, ma le guardie avevano ben altro da fare. Le scarpe appesantite dal fango, le mani imprurigginite da qualche pianta urticante afferrata risalendo la ripa del canale. L'avevamo attraversato su una passerella di fortuna, una scaletta d'alluminio gettata di traverso. È entrato Ricky. Solo mezz'ora prima, nessuno di noi pensava di dover fare quel trekking notturno. Poi lo scatto. Andiamo alla Dozza, becchiamoci al volo in Bolognina. Dal carcere saliva una tromba di fumo scuro, reso bronzeo dalle luci dei fari. Qualche ora prima erano andate a fuoco due macchine della penitenziaria. Sagome nere sul tetto, urla, bastardi! Spari di candelotti, clangori, forse colpi di piccone. Qualcuno sfasciava le barricate. A fare da bordone, il rombo perenne della tangenziale. Dietro di noi, curiosamente, c'era via del Bordone, una stretta piena di buche che avevamo seguito fino a lasciare l'auto all'ingresso del podere La Chioccia. Gran Sasso, cucina abruzzese. Mai avrei immaginato di trovare un ristorante sconfondato qui, in Zemidolo of Nuer. Mi chiedo perdono, ma il bolognese proprio non mi riesce. All'incrocio su via Cadriano c'è lo stabilimento Granarolo. Di giorno un po' di giro c'è, di sera è spettrale però. Ma tanto adesso li hanno chiusi tutti i ristoranti. Entrati in un fondo di proprietà dell'Alma Mater, che ci faceva alcune non precisate culture sperimentali, dopo aver incrociato un'enorme nutria albina, avevamo costeggiato lo scolo calamosco, poco più di un rigagnolo che fiatava nebbia densissima. Trovata la scaletta, eravamo passati di là. Non si vedeva una roba così da 40 anni, da Trani nell'80 o Fossombrone nell'81. Sì, dal Lucciardone, dall'Asinara, un solo grido, compagno spara. Ma nemmeno negli anni 70 ci sono mai state così tante rivolte in così tante carceri, in simultanea. Qui comunque va a finire brutta brutta, quelli che gli va bene li storpieranno di mazzate. Un'ora prima l'ennesimo decreto aveva trasformato il paese in un'intera zona a contenimento rafforzato. Ormai facevano un decreto al giorno, dopamina a balus, intossicati di brutto, divieto assoluto di assembramento, hashtag io sto a casa, cambiamo abitudini, hashtag io sto a casa, tutti serrati in casa, dicevano pop star, rapper, trappoler famosi e registi sorridenti con case immense ai parioli e servitù. Mostriamo responsabilità, siamo tutti sulla stessa barca, ce la faremo tutti insieme, ma con i detenuti non escludiamo di usare l'esercito, loro mica sono sulla nostra barca, l'esercito, vogliamo i colonnelli, con Tognazzi, visto come succede? Zac! E da un'ora all'altra non puoi più lasciare il paese. Prima settimana di marzo, non scrivevamo più nelle biblioteche, ormai avevano chiuso anche quelle, non c'era più un posto dove mettersi, a casa c'erano i cinni e mille distrazioni, e così scrivevamo dove capitava, nei parchi, dove c'era un po' di wifi, sui gradini di San Petronio, anche nella sala d'aspetto della stazione, quella con la breccia della bomba dell'80, che restava aperta. Ci passavamo spesso alla stazione e una sera avevamo visto transitare convogli pieni zeppi diretti a Meridione, folla sui treni per lasciare Milano, avrebbero titolato i giornali. Da poche ore circolavano le bozze di un nuovo decreto provvisorio del Consiglio dei Ministri, no, decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cos'era? Il quarto di una settimana? L'annuncio repentino che l'intera Lombardia e svariate province del resto dell'Alta Italia sarebbero diventate zone rosse, poi virate in arancione. Avevano scatenato il fuggi-fuggi, assembramenti ai binari e in generale un rapido sparpugliarsi di migliaia di persone sul territorio nazionale. Inaccettabile confusione causata dalla diffusione delle bozze del decreto, aveva detto il Premier Conte. Si dava la colpa a un whistleblower. Una petizione lo individuava nel governatore Fontana e o nel portavoce della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Casalino, e per non sbagliare chiedeva le dimissioni di entrambi. Il potere e i suoi zelanti sostenitori si lamentavano che il popolo bue fosse stato informato prima anziché dopo e che avesse capito e reagito male. Ma il caos non aveva scatenato il leak, lo aveva scatenato il testo stesso del decreto. E chi mai, potendo ancora andarsene, avendo un posto dove andare, avrebbe voluto restare intrappolato in una specie di grande lazzaretto? Rispondere con sincerità, per favore, senza infingimenti né pose da cittadini ligi o da forcaioli a misura di social. Inoltre, non era questione di bozze o fraintendimenti. Anche il testo definitivo era, per dirla coi governatori delle regioni dipinte d'arancione, pasticciato, ambiguo, di dubbia interpretazione e di difficile applicazione, deciso e scritto senza un confronto preventivo. Quanto alle misure che si capivano, erano esagerate e senza una ratio, aveva detto Zaia, riferendo il parere negativo del comitato scientifico di cui si avvaleva la regione Veneto. Intanto il Viminale se la prendeva con le regioni, accusandole di muoversi alla spicciolata. Non quelle dove c'era il contenimento rafforzato, ma tutte le altre. Alcune regioni del centro e del sud avevano annunciato la quarantena per chi veniva dalle zone a rischio, altre no. Il governatore della Puglia, Emiliano, aveva criticato i revenants suoi corregionali, lagnandosi dell'esodo che portava a sud l'epidemia lombarda. Ma l'esodo non era cominciato la sera prima. Era in corso da settimane, semplicemente con meno intensità e in modo meno visibile, perché ogni restrizione decisa in fretta e furia e applicata senza la minima chiarezza aveva aumentato la mobilità. La fuga del centro-nord era iniziata con le prime ordinanze regionali ed era proseguita senza interruzione. Molti precari, rimasti senza lavoro e non avendo ammortizzatori di alcun genere, erano tornati dai genitori a sud o comunque sotto la linea gotica, dove almeno un piatto di minestra sapevano di rimediarlo. Non ho capito, dovevo fare la fame per accontentare Burioni? Con gli atenei chiusi, anche molti studenti fuori sede erano ripartiti. Tanto, senza luoghi di socialità e cultura, senza musica e senza cinema, in città non c'è un cazzo da fare. Qualcuno se n'è andato già dopo la prima ordinanza. Dopodiché, di restrizione in restrizione, la vita quotidiana si era fatta penosa e l'esodo era aumentato. Bar, osterie e ristoranti chiuse dopo le 18. Vietate persino l'esibizione degli artisti di merda. Non possono manco studiare, hanno chiuso le biblioteche. Che ci resta da fare in sta città morta? Un attimo di pausa per una questione tecnica. Aspira, può finire, tira, cala, finché non cala, droga si inietta, droga si inala, c'è chi la fetta, chi con la gingola, è droga statale, droga stradale, fota la pianta, l'antista caramba, pure via pure la municipale, dai Giovanni, guardare il verbale, il ciocco ci sta e continuiamo a fumare, lasciano sbobba roba, e puzza truffa, ma tagliano il naturale, ben naturale, lo stato è una truffa, se all'avvocato non tagliano coca, e al cavaliere regalano prosa, che è tutta una mafia, ed è storia nota, come elaborato labirinto, capì che tutto fuori ed è più semplice, te capì? Vendemmia 01, parto di sfrutto, poi prendo la velocità di crociera. 60.000 kg, peso al decollo, dipende dal prezzo, la prestazione stasera, burdel, l'orga dalla fonte la vinaccia. Meglio fino alla maretta, l'erba pagliaccia, bonaccia sul porto, mi vedo col tramonto, non giocare con la storta, porto al file delle radici, alle radici, faccio quel che dice, quel che penso, non sei una persona sensational, non parla affabile se non c'è senso, ma poi le prezze, farcitura, satura, di nero, afghana, palla, manca, mamma, chiamo Droga Tel, drogo te, non aghi ma tubino, è vero fan club, davvero stunner. Rullo no limit, sorrido sui tuoi rullini, sarò anche lì ma non sono Udini. Forse perché ne faccio tanto, non prendo estasi, acidi e speedy. Ma stai qui e poi ti dicono paste, paste, per ritmi rapidi in danze e riti. Ne mangi quante, quante, sulle banche una tronche d'inverno in suspense. È la testa di vacche magre, magari anche tua madre la piantasse, invece pantera e tante talpe, porchi sbirri, fai giri al sequestro in tandem. Fai sbirri, fan giri nel mezzo in ronde, ante le camere sonde, c'è sempre un fame che risponde. Meglio una pera nel parco al fresco, e non una sera con scimmie al fresco. Sera fuori ma aveva già scippo, preso fatto non aveva fatto presto, tanto è il solito stesso pretesto qui. La città piccola, la gente mormora, c'è chi svicola, qui dice come tortora. Ma tranquilli, gli amici del sindaco, tu chiedi se ieri non pippano, e domani i contratti che firmano, son soldi che entrano, righe che stendono, in tante ragazzi incazzano. Give me the ganja in the shillong, give me the ganja in the highlight. I made a fire for the ganja, I feel like. Yo, me get it from the left, I am a pass it to the right. And I'm a villain, I'm a bummer, but you know when I'm frightened. Cause me take a toke, yeah, this smoke fill me long. Me take a net down and it make me feel strong. And everybody knows the healing for the nation. Girl, let's smoke the ganja, get a good vibration. Passatempo, tempo, tempo passa, ci confondi con la nebbia, gorilla Saiyan. T'ho visto sotto l'un cavalca via sboccare con Goku-san. Di sotto della cappa in pannacca quella volta ad Amsterdam. Che rimollo come una seppia, con una bionda per la sete, una per far su, sempre per quei giochi di dita. Come le slora far pida, e nida, e diga, e crede, e veda. E poi anche hai su, la mia fronte riflette di blu. Adesso, quasi subito, un grammo valunchino con modello. Pensati per il cielo, rivolgiti a fuori un po'. Faccio il bullino che c'ha il palazzo, supereroi che muovono il petto dal mezzo del lato del marto di Obo. Già la mamma mi diceva troppo, troppo, e la canna mi diceva ciò consortia. Ma se l'erba era vera e sincera, sai che mi dice ora ridi, ora sogna. Dici era meglio negli anni 70, si fumava una canna in 40. Era che tamma, che tamma, e ti svari, e ci si metteva ben sopra dei grammi. Era tabù farci sopra gli sgrammi, ero in avistato, calmato in caldi. Poi cani avidi hanno addestrato, e ora la scanca paghi come il platino. C'è chi ci mette pure le Davido, appena da spendere ne prende un ciuffino. Ma se ti chiedono solo uno spino, prendo un per crema, un marocchino. Give me the ganja in the shillong, give me the ganja in the vibe, lad. I'm with the fire, for the ganja I feel like. Yo, me get it from the left, I am a pass it to the right. And I'm a villain, I'm gonna, but you know when I'm afraid. Cause me take a toke, yeah, this smoke fill me long. Me take a net out and it make me feel strong. And everybody knows the healing for the nation. Girl, let's smoke the ganja, get a good vibration. Ok, chiediamo scusa per l'interruzione così improvvisa. Ci siamo messi una colonna sonora un pochino più adatta. Sì, siamo in Fuga da Los Angeles, film di John Carpenter. Prima o poi arriverà la parte corretta. Va bene. Eravamo su Jap, stavamo leggendo il terzo episodio dei diari, del diario virale contro chi sminuisce l'emergenza. Stavamo parlando di rivolte nelle carceri e fughe dal nord. Per due giorni Bulagna era rimasta una specie di isola, parte di un arcipelago che includeva Ferrara, Ravenna, Forlì e Cesena. A ovest la zona arancione cominciava dopo Anzola, a est Rimini era già dannata, la Vemiglia interrotta da checkpoint e confini presidiati, non accadeva da settembre del 44. Poi, in capo a due giorni, ci eravamo dannati anche noi, con tutto il paese. Nowhere to run anymore. In Emilia Romagna c'erano 75 persone ricoverate in terapia intensiva, 75 in tutta la regione, e si diceva che la nostra sanità, fino a ieri eccellenza, fino all'occhiello, eccetera, era sull'orlo del collasso. Ok, bisognava tener conto della crescita esponenziale. In capo a una settimana potevano diventare 250, ma quello era il classico ragionamento di chi dà la colpa alla natura per la distruzione di un sisma, senza tener conto di come si è costruito, di come si è conciato il territorio. A forza di chiudere gli ospedali, una regione di 4 milioni di abitanti si era ridotta ad avere poche decine di posti letto e ventilatori per affrontare l'epidemia. Meglio andare con ordine, però, sulla sanità dopo. Il mondo del lavoro era stato gettato nel caos. I decreti governativi imponevano a distanza di un metro nei luoghi di lavoro e lo smart working per chi poteva lavorare da casa. Questo creava una discriminazione evidente. C'era chi veniva messo in sicurezza e chi no. La campagna comunicativa era ossessionante. Restate a casa, non siate incoscienti. Ma chi lavorava nei front office, chi mandava avanti gli uffici pubblici di servizio, rimaneva alla catena di montaggio, iniziava a sentirsi quello a cui era toccata la pagliuzza corta e minacciava di mollare tutto. Cosa sarebbe successo se uffici e fabbriche non avessero più funzionato? Intanto, la chiusura di palestre, centri sportivi, scuole, cinema e teatri aveva messo a casa una miriade di lavoratori autonomi e parasubordinati che per le caratteristiche contrattuali facevano fatica ad avere accesso agli ammortizzatori sociali. I sindacati di base si chiedevano il reddito di quarantena, cioè misure di sostegno al reddito di tutti i cittadini, fossero lavoratori dipendenti, precari, autonome, partite IVA, operatori sociali, lavoratori dello spettacolo, eccetera. I lavoratori messi a casa scrivevano disorientati e disperati ai sindacati, anche solo per sapere cosa fare. Salve, vi scrivo per segnalare la perdita del periodo lavorativo corrispondente all'emergenza coronavirus. Una delle società per cui sono responsabile di settore mi corrisponde 250 euro al mese, l'altra, una scuola dove insegno 15 ore a settimana, me ne corrisponde 300. Per tutta la durata dell'emergenza non percepirò il compenso pattuito. È una situazione che ci mette in ginocchio. Io ho famiglia e figli, non è possibile essere trattati così. Aiutateci, grazie. Erano decine e decine le mail di telefonate di quel tenore che riempivano le casalle postali e le linee della Camera del Lavoro. Dopo anni e anni di desindicalizzazione, emorragia di tesseramenti, disintermediazione, all'improvviso la gestione delle conseguenze dei decreti statali ricadeva sui mediatori sociali. Questi si ritrovavano impegnati all day long nell'attivazione delle casse integrazioni, anch'essi impreparati a reggere una valanga di quella portata, e a loro volta intralciati dalle ordinanze, che imponevano la distanza e il contingentamento degli ingressi. Anche loro rischiavano il collasso. Lo Stato emanava decreti draconiani, confusi e incoerenti, e il paese reale doveva interpretarli, tradurli, renderli sostenibili, ammesso che fosse possibile, e non lo era. Il 1 marzo il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, aveva dichiarato: se entro i prossimi 7 giorni i contagi scenderanno, vuol dire che le chiusure e le misure prese hanno funzionato. Dei giorni ne erano passati 10 e tutti erano d'accordo. I contagi erano in rapido aumento, rapidissimo, tanto che non c'è più tempo, aveva detto Conte annunciando la chiusura dell'Italia intera, salvo poi lamentarsi, come sempre, che il popolo non aveva capito perché si era precipitato a fare scorte. Ma se mi dici non c'è più tempo, che devo capire io? Per la precisione, in aumento erano le diagnosi positive, il numero reale dei contagi, visto che la maggioranza si beccava il Covid-19 in forma sintomatica o lieve e nemmeno si faceva il tampone. Non lo conosceva nessuno. Ad ogni modo, stando alla proposizione condizionale di Brusaferro, si poteva concludere questo: le misure non avevano funzionato. Del resto, alcune le avevano decise a dispetto dei pareri negativi degli esperti. Il 4 marzo il comitato scientifico che prestava consulenza al governo aveva detto: chiudere le scuole adesso e per 2 settimane sarebbe di dubbia utilità. Parere ignorato dal governo, uscito sui media ma immediatamente affogato nel clamore, per poi essere dimenticato. Ma non si trattava solo di inutilità. Era plausibile che le ordinanze e i decreti fino al penultimo, aumentando gli spostamenti delle persone, avrebbero in realtà esteso il contagio. Dunque, cos'era rimasto da fare, secondo la logica da rotolone lungo il piano inclinato, se non dichiarare l'Italia intera zona protetta? Per questo il nuovo decreto ha sole 48 ore dal precedente. Secondo il team dell'Istituto Sacco dell'Università di Milano, che studiava il virus SARS-CoV-2, quest'ultimo girava in Italia almeno da gennaio, mentre il primo decesso collegato al Covid-19 era del 21 febbraio. Se era vero, allora le misure di contenimento erano tardive e dunque, anche fossero state più coerenti, la loro applicazione meno cialtronesca, sarebbero servite a poco. Che la tempistica fosse la chiave dell'efficacia lo dicevano diversi studi scovati e passati in insegna da Mauro e anche accreditati da siti di informazione scientifica come MedBunker. Punto fondamentale di tutte queste misure è che vanno applicate appena possibile, subito. Un ritardo può renderle meno efficaci o completamente inutili. In Italia, nel periodo da novembre, cioè quando è esplosa l'epidemia a Wuhan, al 21 febbraio, che cosa si era fatto? Non era tanto difficile intuire che, prima o poi, l'epidemia del Covid-19 sarebbe uscita dalla Cina e, in ogni caso, era un'eventualità alla quale prepararsi. Invece ci si era crogiolati nella disinformazione, l'autocompiacimento orientalista. Più o meno, guardate i cinesi, si credevano sto cazzo e adesso muoiono come mosche. Per il resto, giornali TV, come sempre, avevano rigurgitato scemenze, ruttato gossip, reiterato gare di cucina e ruminato la solita politichetta di infimo cabotaggio. Pagine e pagine, ore e ore di talk show a mostrare la bruzza di un miracolato come Salvini o a commentare le bizze di un has-been come Renzi. Il 21 febbraio la stampa faceva ancora battute sul virus della politica italiana e in prima pagina c'erano insussaggini su Renzi. Il giorno dopo tutti i giornali avrebbero aperto a 5 colonne sul primo morto di Covid-19 in Italia. Come aveva ben riassunto Girolamo De Michele, se invece di strepitare istericamente sulla chiusura delle frontiere, quando ora lo sappiamo con certezza il virus era già in Italia e non l'avevano portato i cinesi, si fossero per tempo rafforzati i presidi sanitari, partendo dalla constatazione che il virus non sarebbe rimasto confinato nella provincia di Hubei, è probabile che quello che è stato considerato un picco di polmonite da influenza stagionale sarebbe stato riconosciuto nella sua vera natura. Se fossero stati predisposti, come in Cina, adeguati ricambi di personale medico, evitando turni stressanti che sono la norma e che hanno offuscato le capacità di riconoscere l'improbabile dietro il consueto, se i primi pazienti fossero stati, oltre che identificati, ricoverati in ambienti idonei, il virus non avrebbe avuto diffusione epidemica. Dopo la prima morte, in sole 24 ore si era passati dal regime della cazzata al regime della paranoia. E purtroppo il caso del 38enne di Codogno, il paziente 1, aveva funzionato da diversivo, disperdendo l'attenzione in troppe direzioni, distogliendo dal fatto che tutte le altre vittime erano anziane e o già indebolite da altre patologie. Una volta che lo facevi notare, qualcuno ti rispondeva: «E allora è 38 di Codogno, eh?» Se constatavi che l'89% dei morti era sopra i 70 anni, il 58% sopra gli 80 e nel complesso l'età media era di 81, ti accusavano di fregartene se muoiono i vecchietti. In rete, svariati post e commenti di imbezel che si accusavano di questo. Al contrario, quei dati, lampanti come erano, avrebbero dovuto far capire che gli anziani andavano protetti in special modo, senza disperdere energie e diffondere paranoie, informandoli subito e adeguatamente. Qualcosa tipo: «Nonno, la situazione è rischiosa. Per un po' senti i nipoti per telefono e aspetta benché passi la buriana». Messaggio a tutta prima simile, ma in realtà ben diverso dal generico, tardivo e terrorizzante «anziani chiusi in casa», risuonato che ormai si era a marzo. Come avevamo scritto nel diario Virale 2, ci sarebbe stato bisogno subito di corretta informazione, unita alla capillarità dell'assistenza e alimentare misure di profilassi della routine quotidiana. Intervenire sulle esigenze dei più vulnerabili, principalmente anziani immunodepressi, e potenziare le strutture ospedaliere che potessero accoglierli. Se l'obiettivo era non far collassare la sanità, allora si sarebbe dovuto agire sui soggetti più a rischio, e intanto per munirsi aumentando i posti letto in terapia intensiva, comprando nuovi ventilatori e tutto il resto. Invece i provvedimenti, chiusura dei luoghi di studio e di cultura, poi dei luoghi di lavoro, poi di intere province e infine, in un crescendo di panico dell'intera nazione, erano stati massimalisti e generici e avevano avvelenato la vita sociale, diffondendo la paura del prossimo, il sospetto verso i rapporti umani, il desiderio di ulteriori misure securitarie. Per 2 settimane la regione Emilia-Romagna aveva tenuto chiuse le scuole, ma non i centri anziani, e così 16 nuovi ammalati si erano passati il virus nella stessa bocciofila. Se era aperta, normale che qualcuno pensasse di poterci andare, no? Se non volevi che ci andassero, dovevi chiuderla, no? Ma le autorità, lungi da fare autocritica, si erano messe a colpevolizzare gli anziani. Era partito il mantra «gli anziani a casa». Mantra inutile, perché era troppo ipocrita, messa sul buco di prima. E perché era un'ingiunzione vuota, era una toppa ipocrita messa sul buco di prima. E perché era un'ingiunzione vuota, come se gli anni di massima diffusione della DS ci avessero detto tut curto, non dovete chiavare, non chiavate. Mantra controproducente, perché inibiva anche condotte che invece sarebbero state salutari, come nell'apologo raccontato su Giap dall'utente Vecio Baeordo. Ieri mia madre, che è ampiamente in età a rischio, mi ha detto: «Sarei uscita volentieri, sto bene, non faceva freddo e come sai ho tanto bisogno di camminare, ma dicono di stare chiusi in casa e ci sono rimasta. Non sarebbe andata in birreria e nemmeno al supermercato, ci vado io per lei. Sarebbe andata a prendere una boccata d'aria e muovere i muscoli e far circolare un po' il sangue. Zero contatti, zero aumento del rischio di contagio. Siamo partiti da un virus e siamo arrivati a un generico bau bau che sta là fuori. Un nemico invisibile ed esterno, tecnicamente una paranoia». Finalmente, al TG del 20 marzo, al TG delle 20 dell'8 marzo, uno scienziato senza aspirazioni sbirresche, l'infettivologo Massimo Andreoni dell'Università di Tor Vergata, l'aveva detto chiaro. Gli anziani non devono restare confinati notte e giorno, è importante anche per loro uscire e svagarsi, magari non frequentando luoghi affollati, ma una bella passeggiata non può fare che bene. Nel frattempo, proprio lì a Bulagna, a Bulegna forse, una paziente proveniente da Piacentino con la tosse era stato ricoverato in urologia per un intervento senza problemi. Nessuno le aveva chiesto niente. Avevano dovuto chiudere l'intero reparto perché solo dopo giorni si erano accorti che aveva la febbre da Covid-19, non dal decorso post-operatorio, e i pazienti di urologia erano stati ricollocati altrove. L'episodio faceva capire bene su quale genere di prevenzione e informazione si sarebbe dovuto puntare. Triage all'ingresso delle strutture sanitarie, procedure diagnostiche mirate, potenziamento delle strutture, eccetera. E su quale cosa invece si era incaponita a insistere? No, interazioni sociali. Stare a casa. Hashtag io sto a casa. Ma quando politici e influencer intimavano a casa, quali case avevano in mente? La loro, a quanto pareva. A leggere le disposizioni sulle misure di contenimento, sembrava che ciascun italiano avesse una stanza tutta per sé dentro una casa spaziosissima e ovviamente ciascuno avesse un bagno separato. Nel decreto del 7 marzo, per esempio, c'era scritto che chi aveva i sintomi doveva rimanere nella propria stanza, con la porta chiusa, garantendo un'adeguata ventilazione naturale. Ammalato o meno, chi restava in casa passava il tempo davanti alla TV, ad alimentare il proprio terrore, o sui social, dove ci si aizzava, impauriva e caricava a molla vicenda, commentando gli annunci sempre più ansiosi e ansiogeni, facendo un reload per aggiornare la partita doppia dei morti e dei guariti. Numeri sciorinati minuto per minuto, come se fosse una partita basket, italiani contro coronavirus. Numeri decontestualizzati, e perciò inutili a farsi un'idea sensata della situazione, come nel 2011 con l'aumento del misterioso spread. WhatsApp era l'arma che aveva fatto più danni, di gran lunga il più potente amplificatore di paranoia. Messaggi vocali proliferanti parlavano di ventenni intubati. Uno che era attribuito ai sanitari del Niguarda di Milano. L'ospedale aveva smentito, una bufalazza, giusto per alimentare il terrore. Una menzogna, una porcheria inqualificabile, aveva detto il primario del San Raffaele, aggiungendo: noi abbiamo 27 persone in terapia intensiva, 6 sono guariti e ce n'è uno di 18. Ma uno, e capita anche in periodi normali che un giovane possa ammalarsi di polmonite, l'età media dei pazienti è 70 anni. Ma c'era poco da smentire, perché i social giocavano di rimessa. Il problema era il circolo vizioso tra politica, informazione e mainstream. Se si fosse continuato a parlare solo di contagi, morti e zone rosse, la paranoia avrebbe continuato ad autoalimentarsi e a produrre mostri e decreti, mostri sempre più assurdi. Anche perché i politici reagivano sempre peggio e con meno lucidità man mano che scoprivano di essere positivi al test. Era come se al governo ci fosse Re Julian, quello di Madagascar. Nel secondo film vuole offrire Melman, la giraffa, in sacrificio al vulcano per far finire la siccità. Ecco, uguale. Era indispensabile allargare il campo dei discorsi e dell'analisi oltre la risposta codina. Qualcosa devono pur fare. In un mese e mezzo di emergenza, delle carceri se ne erano fottuti tutti, come di altre realtà di sovraffollamento coatto, tipo CPR, dormitori e centri di accoglienza. Da anni la situazione di penitenziari sovraffollatissimi si era gestita sul filo del rasoio. Con l'emergenza le condizioni di vita erano ulteriormente peggiorate, anche per via delle restrizioni iperzelanti e ingiustificate, misure improvvisate che il Garante Nazionale dei Diritti dei Detenuti aveva definito frutto di un irragionevole allarmismo che retroagisce determinando un allarme sempre più crescente che non trovava fondamento né giustificazione sul piano dell'efficacia delle misure. La tensione cresceva da settimane, l'associazione Antigone aveva cercato di farlo capire e avanzato proposte di buonsenso, restando inascoltata. Finché non erano esplosi i grandi riot, per ora sono le prigioni, domani chissà. Mentre scrivevamo, era giunta la notizia che a Modena un detenuto era morto, poi i morti erano saliti a 3 e c'era un ferito grave, poi i morti erano saliti a 6, poi 7, infine 8, 3 morti anche a Rieti, a Pavia venivano presi in ostaggio 2 agenti in custodia, a Foggia c'era stata un'invasione di massa. Il 10 di marzo era esplosa anche la Dozza, centinaia di detenuti si erano impadroniti del reparto giudiziario. Verso sera compagni e compagni avevano raggiunto il carcere ed esposto uno striscione con la scritta amnistia subito, liberi tutti e tutte. A quel punto le autorità non avevano più fatto passare nessuno, noi ci eravamo rimasti solo perché Vooming 2 conosceva ogni cazzo di sentiero e cave d'agna dei dintorni. Da decenni in Italia non si vedevano rivolte carcerarie tanto vaste e radicali. I detenuti erano i primissimi a rivoltarsi apertamente contro la gestione dell'epidemia, sulla pelle dei più deboli e degli esclusi. La cosa pensata da fare in un paese diverso, realizzabile subito, l'aveva enunciata con la massima chiarezza Luca Abba, un militante notabile. Liberare chi già gode di benefici, chi è sopra una soglia di età definita a rischio, chi ha un residuo di pena sotto i 2 anni, non sta a me proporre quali misure alternative si potrebbero applicare, tipo obblighi di firma, rientri domiciliari e via dicendo. E nemmeno la forma legislativa adeguata, amnistia, indulto, decreto legge. Ai detenuti esclusi da tale provvedimento si potrebbero applicare più facilmente misure di prevenzione e sicurezza adeguate per poter garantire i colloqui con i propri cari e condizioni di detenzione meno disagiate di quelle odierne a causa del sovraffollamento cronico degli ultimi anni. Mentre partono gli Oasis, vi lasciamo qualche minuto di pace e poi continuiamo con il diario virale 3 dei Wuming. E siamo tornati dopo questa piccola pausa musicale. Stavo cercando una traccia per farmi da sottofondo musicale, ma non ci sono riuscito a trovarla. Se qualcuno vuole illuminarmi sul come fare a trovare le tracce che voglio, me lo dica. via messaggio Piccione Viaggiatore. 10 marzo sono le 21.54, stavamo leggendo la terza parte del diario virale, ma vogliamo lasciare qualche minuto a Fergi per esprimerci e dirsi la sua, per esprimersi e dirsi la sua, dirci la sua, posso farcela parlare italiano? Soundcheck, soundcheck. Guarda. Si sente? Si sente, vai. Ah no, niente. Niente? I'm back. No. Sì, è un discorso di prima. Non so, è un po' fantascienza, eccetera, ma è sempre possibile. Sai, detto, everything you can imagine is real. Parlavamo prima del... dato che stiamo sempre a casa, non so, quello che sento, visto anche in video che c'è questo locale, la polizia locale che va in giro, state a casa, là. Ma mi sembra vero che io vivo sempre nell'altro mondo. A quando ho visto i video proprio che stasera, vabbè, che dobbiamo fare? Comunque, we just need to look on the brighter side. In fact, we could do anything and everything in what do you call it, a 5 meter square of a space. Io praticamente nel collettivo ZAM facevamo. We are doing some stamping shirts in what do you call it, 2 metri quadrati di spazio. E lì facevamo le magliette. Beh, praticamente poco spazio, guarda, puoi farle tutte. Anzi, puoi far crescere le muffe dentro nel frigo. Cioè, non lo so, ma non muffa, però funghetti. Funghi. Chissà perché non... vuoi fare crescere i funghetti. No, sì, per sì, farti sì. Risotto, sicuro. Ovviamente. Ah, certo, ma che ovviamente hai presente col barbera. Le tecniche giapponese. Ma giapponese. Non eri mica musulmano, scusami. Tu non lo mettevi l'alcol? Non lo bevevi? No, beh, eravamo musulmani. Comunque. Non penso di averti mai visto ubriaco. Mai oggi. Non parliamo di alcol. Esatto. Non mi sbronzo da solo. Attenzione, che forse ci stanno suggerendo come fare a trovare. Certo, nel cartello del PC. La questione, però, problematica okay. È che non c'è il cerca. O le cerco tutte quante riguardo una dopo l'altra, oppure non so. Ma il quale razza di sistema com'è? Operativo avete messo? La richiesta del canzone, niente? No, sono io che sto cercando una canzone per farmi da sottofondo, ma non allora, la sto trovando. Mentre che stiamo cercando il canzone, eccetera. Ah, vabbè, no. Ecco la tecnica di sostenibilità in stile minimalista. Però non voglio mettervi in panico. Come si chiama? Il prepping. Ringraziamo. Abbiamo appena letto che ci ha pensato il nostro governo a metterci in paranoia dura. Non ci mettere in paranoia anche tu. No. E anzi, trasciniamo, canalizziamo verso il produzione. Ci sta. È sempre autonomia. Canalizziamo verso il produzione. Direi che è la soluzione che migliore. Nel frattempo non so quanto tempo dobbiamo aspettare, ma godiamo il momento del what do you call it? La temperatura che abbiamo adesso. Cioè, quanti gradi abbiamo adesso? Meno 20? Sì, può darsi. Può darsi. Allora, più l'umidità in Giappone. In questo momento, in questo proprio periodo, si raccolgono i shiitake mushrooms. Cioè? C'è il mushroom shiitake che crescono dei... ci sono anche, scusami, non solo shiitake, crescono anche i pioppini, in cui sono buonissimi. I pioppini, che crescono nell'albero pioppo. Cosa che il Teo ci spiegherà meglio, ma non c'è, ma ovviamente possiamo anche mettersi dell'auto-informarsi. Dato che siamo sempre a casa, invece di guardare notizie, manipolatori, eccetera, possiamo magari guardare un po' di autoproduzione dei funghi o autoproduzione del germogli. Non mi ricordo. Mini greens, per essere preciso. The mini greens. c'è This Mini Greens, tipo germogli di dei semi che possiamo ottenere, possiamo comprare dai mercati. Che ovviamente se vai in mercato nessuno proprio li cagano, ma in realtà sono super potenti, sono i superfoods. Sono i superfoods. Mini greens. No. Ringraziamo chiunque ci dà del post-apocalittico. Noi stiamo dando il peggio di noi stessi. In realtà non è post-apocalittico, sono tecniche per farsi crescere i funghetti sulle dita dei piedi mentre fuori per c'è coronavirus che piove lava. Invece di parlare delle galline o le coniglie allevate a casa, giusto, lasciamole nelle case degli altri, mi raccomando. Va bene, allora io onestamente continuerei la lettura dell'articolo. Dai, dai. Siamo su Diari Viari 3, il blog dei Wuming, Giap. Stiamo parlando di rivolte nelle carceri ed ecco come continua l'articolo. Momento che qua, abbassa un attimo la musica, sennò diventiamo stupidi. Eccoci qua. I detenuti non si erano fatti paralizzare dal timore di essere criminalizzati. Stavano già in gaiba, più di così. Fuori, pur... per essere messi alla gogna, ditati come delinquenti, bastava esprimere un minimo scetticismo sulla gestione dell'emergenza. Sui social circolava la solita memetica e satira fascistoide, in cui si dava la colpa dell'epidemia a vari capi espiratori, gli italiani che se ne fottono delle regole, la fauna della movida, un pingue e suicidio attivista con la bandiera della pace. Ma, anche in questo caso, a fomentare c'erano i media mainstream, con gli articoli contro i presunti furbetti della quarantena. C'era un chiaro desiderio di maniere spicce di uno stato autoritario che facesse pulizia. Tanti dicevano che la Cina ce l'aveva fatta perché lì c'era un regime, una dittatura. Altri blateravano di responsabilità collettiva e di proteggere i più deboli, quando fino al giorno prima avevano incensato la meritocrazia, il darwinismo sociale e chi se ne fotte delle persone più fragili. Più sottile l'accusa di sminuire l'emergenza. A noi sembrava che quell'accusa andasse rovesciata. Sminuiva l'emergenza chi accusava gli altri di sminuire l'epidemia. Sminuiva l'emergenza chi la confondeva con l'epidemia. Sminuiva l'emergenza chi voleva parlare solo del virus, del numero dei contagi, del bollettino di guerra, strettamente sanitario, eccetera. La fallacia era parlare di provvedimenti politici drastici senza precedenti, di misure di governance con ricadute sociali a cascata, come se fossero procedure cliniche. Lo spettacolo di una medicalizzazione della politica era messo in scena giorno e notte, tramite l'insistenza su mascherine e ingressi di ospedali. E se non ti adeguavi a quel modo di parlare dell'emergenza, ti accusavano di sottovalutare la situazione. Colpa di un equivoco di fondo, di un malinteso concettuale che ci vedeva reciprocamente lost in translation. C'era chi per emergenza intendeva il pericolo di cui l'emergenza prendeva le mosse, cioè l'epidemia. Invece noi e pochi altri, in nettissima minoranza ma in continuità con un dibattito almeno quarantennale, chiamavano emergenza quel che veniva costruito sul pericolo, il clima che si instaurava, la legislazione speciale, le deroghe a diritti altrimenti ritenuti intoccabili, la riconfigurazione dei poteri. Chi, ogni volta che si parlava di tutto ciò, voleva subito tornare a parlare sempre solo del virus in sé, della sua eziologia, della sua letalità, delle sue differenze con l'influenza, eccetera, delle sue differenze con l'influenza, a nostro parere sottovalutava la situazione. Qualcuno, poi, accusava a vanvera di negazionismo. Noi stessi, pur non avendo mai negato la pericolosità del virus e l'esistenza dell'epidemia, ci eravamo beccati l'epiteto di negazionisti epidemiologici. Beh, ci eravamo abituati. Con calma ci sarebbe stato da riflettere su quanto l'accusa di negazionismo del coronavirus avesse in comune con quella, altrettanto farlocca, di negazionismo delle foibe. In ogni caso, l'uso a cuor leggero del concetto di negazionismo faceva danni. Inflazionando il termine e rendendo l'accusa passepartout, si toglieva l'erba sotto i piedi a chi cercava di contrastare i negazionisti veri, quelli dei crimini nazifascisti e quelli del cambiamento climatico, che, tra l'altro, sovente coincidevano. In un commento su Giap, Wolf ha scritto: «È almeno dal 92-93 che non disponiamo più di un tempo ordinario. Una qualche emergenza c'era sempre, come minimo quella farlocchissima dei conti pubblici. Non riconoscere l'emergenza permanente in cui siamo immersi è, come minimo, sintomo di una totale mancanza di senso storico». Sempre Wolf, in un altro commento, aveva invitato a ponderare le somiglianze tra la retorica sull'epidemia e quella che aveva preceduto la nomina e l'insediamento del governo Monti. E così ci eravamo accorti del parallelismo tra dati sul contagio e spread. Anche nel 2011 si era percossa, martellata l'opinione pubblica con cifre decontestualizzate, facendo crescere la paura dell'irreparabile, finché non c'era stato un quasi coup d'état, francese ragazzi, mi spiace, pilotato dall'UE per disaccionare Berlusca e insediare Monti. Per svegliare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, vorrei invitare qualcuno a farmi un audio in cui mi dice come si legge esattamente coup d'état, che significa colpo di stato, immagino in francese. Sì, è arrivato filippino che parla inglese. Coup d'état. Grazie per il contributo, puoi tornare a dormicchiare lontano da me, perché sennò mi attacchi il coronavirus. Ma in realtà l'emergenza permanente era cominciata prima, nella stagione delle leggi speciali sul terrorismo. A fine anni 90 ci avevano pure scritto un libro, Nemici dello Stato, criminali, mostri e leggi speciali della società del controllo. Prima del Covid-19 eravamo convinti che la critica dell'emergenza fosse ormai patrimonio dei movimenti, una consapevolezza più acuta di alcuni attivisti e più vaga in altri, anche astratta volendo, ma in ogni caso presente. Eravamo anche convinti che le ricette di organizzazioni internazionali come l'OMS, il Fondo Monetario, il WTO, l'UNESCO, la FAO non venissero prese ipse fatto come Vangelo. E invece molti che negli anni dentro i movimenti sociali non avevano lesinato discorsi e retorica sull'emergenza come metodo di governo, di fronte all'emergenza coronavirus balbettavano e sembravano sguarniti di strumenti critici, affannati e pavidi di fronte a eventuali accuse di irresponsabilità, poco per nulla desiderosi di spazzolare contro pelo i discorsi dominanti, e lo stesso di fronte alle tracotanze di qualunque esperto e comunicati dell'OMS. Qualcuno andava oltre, mostrandosi proprio infastidito dal pensiero critico. Di lì le accuse di stampo perbenista, rivolte anche da parte di insospettabili a chi nonostante tutto cercava di esercitarlo il potere critico. Per bene o male che gli riuscisse, non rinunciava alla parresia, al parlar franco, anche rischiando attacchi in popolarità. A saltare per prima era stata la capacità di comprendere i discorsi altrui. Se fai il paragone con l'influenza, aveva scritto Roby Doc su Giapp, devi poi specificare che non è un paragone epidemiologico. È come se stessi facendo il paragone con i morti sul lavoro. Eh già, nunquam nominare influenziam, precetto di stretta osservanza buroniana. Chiunque avesse detto cose ovvie sul fatto che, sotto l'aspetto sintomatico, la maggior parte dei pazienti che si accorgeva di avere la malattia la viveva con un'influenza più aggressiva, aveva scatenato reazioni pavloviane, si era beccata epiteti. Roby Doc proseguiva: se dici che non sembra sia il virus in quanto tale che uccide, visto che deve agire a certe condizioni per essere pericoloso, devi specificare che questo non significa tanto non toccherà a me. Se metti in rilievo l'insensatezza e la contraddittorietà di alcuni provvedimenti, poi devi specificare che non stai proponendo di andare a vedersi la partita, eccetera. Chi non aveva reagito come sopra, spesso aveva scelto l'autocensura per non passare come quello che sminuiva il negazionismo, il dietrologo e quant'altro. Forse con il decreto serale del 10 marzo qualcuno avrebbe cominciato ad aprire gli occhi. Giorgio Agamben, più di qualunque altro, aveva subito il tiro del piccione per il suo articolo uscito sul Manifesto. Agamben si era espresso male, frettolosamente, parlando del virus vero e proprio, ancora una volta l'eziologia alla quale si sarebbero voluti confinare tutti i discorsi, ma nelle righe sull'emergenza il suo monito era stato: attenzione, la situazione di questi giorni dimostra che, dal punto di vista del controllo e del disciplinamento sociale, sfruttando un'epidemia si può ottenere di più e molto più in fretta che sfruttando altri pericoli. E aveva fatto l'esempio del terrorismo, esempio ripreso anche da Mattia Galeotti su Giapp, ma in un modo che poteva essere di ispirazione e al tempo stesso aiutava a ribadire la differenza tra pericolo ed emergenza. Nella Francia, di fine 2015, dopo il massacro al Bataclan e di altri attacchi del 13 novembre, il pericolo del terrorismo era reale, le stragi c'erano state, ma l'emergenza terrorismo era una superfetazione, era tutto il di più, costruito sul piccolo reale, la legge marziale, lo stato di polizia, il divieto di manifestare, eccetera. Scetticismo e critiche si erano diffusi dai francesi fin da subito, ma, come aveva scritto Galeotti, non poteva bastare la semplice evidenza dell'insensatezza di divieti e restrizioni, perché erano altrettanto diffusi la paura e il preconcetto «non è il momento di criticare». A un certo punto però qualcuno, qualcuna, ha detto qualcosa di completamente diverso. è cominciato piano piano con le manifestazioni dei migranti, con le contestazioni alla COP21. Alcune manifestazioni non autorizzate avevano dato divieti, a partire da un rifiuto dell'emergenza. La vera emergenza è il clima, era uno slogan di quei giorni. Stiamo parlando del fine del 2015, ma quei giorni sono stati importanti per aprire il ciclo di cui l'esagono si trova anche adesso. Così come è stato fondamentale che il movimento contro la loi de travail dell'anno successivo desacralizzasse Place de la République, che era all'epoca diventato un simulacro di unità nazionale, con la statua piena di candele e frasi strappalacrime. Destituire l'emergenza è un'operazione che in Francia è riuscita. L'estate d'urgence, giustificato col pericolo del terrorismo, era stato sfidato e disarticolato dal basso, dall'avvio del ciclo di mobilitazioni politiche e sindacali partorito allora e durava ancora nel 2020. I milioni di persone che avevano infranto i divieti non erano negazionisti, gente che non credeva nell'esistenza dell'ISIS, era gente che contestava che ciò che si voleva imporre sfruttando il pericolo rappresentato dall'ISIS. Ci avevano spesso accusati di ottimismo in passato, bastava che constatassimo: in Italia le lotte ci sono, e molti, come siete ottimisti. Semplicemente non ci eravamo mai abbandonati al fatalismo e melancolia. E così si era ottimismo a pensare che, nonostante tutto, l'emergenza fosse contrastabile, disarticolabile e lo stato d'emergenza destituibile, e che il conflitto reale sarebbe tornato a manifestarsi. Eravamo stati attaccati per aver scritto nel diario Virare 1 quel che in realtà avevano scritto anche svariati esperti e rispettati divulgatori, e che il sito Scienza in Rete aveva così riassunto: quello che si deve dire è, sic et simpliciter, che molti di quelli che incontrano il virus nemmeno se ne accorgono. Di quelli che manifestano sintomi, solo una percentuale minima, forse il 2-3%, alla fine dell'emergenza saranno anche meno, ci lasciavano le penne. Un numero che certamente si vorrebbe e dovrebbe evitare, ma che va considerato nella sua giusta dimensione. Per essere ancora più chiari, non è né la febbre gialla né il vaiolo, non è nemmeno la MERS né la SARS. Queste due ultime condizioni sono causate da altri coronavirus. Se lo si dicesse chiaramente, ribadendo il concetto che questa letalità, unita alla finora bassa probabilità di contagio individuale, produce un rischio individuale nullo, perché non si trova nella zona ad alta densità di contagio. Si eviterebbero le code ai supermercati per comprare 50 scatolette di tonno, 6 flaconi di ammucchina e 50 bottiglie d'acqua. E invece, come già avevamo fatto notare, altri esperti, magari per vendere un instant book con prima tiratura di 100.000 copie, alla chiarezza preferivano l'allarme indiscriminato, fino a lanciare strali contro chi, già guarito, usciva di casa, dando così un presunto segnale sbagliato. C'erano poi vari modi di giustificare le misure prese, trasformando in sacre scritture studi dagli esiti dichiaratamente incerti e sfumati. Mai, come in quei giorni, si era visto che la comunicazione scientifica si presentava come neutra, ma era inzuppata di ideologia dominante, come ogni altra comunicazione, e presa nelle contraddizioni del reale. Ne aveva scritto su Giap Mariano Tomatis qualche anno prima, e in quell'occasione c'era stato un bel dibattito. Ma gli ultimi in grado di rendersene conto sembravano essere scienziati. Il patto trasversale per la scienza concludeva così il suo comunicato congiunto sull'emergenza coronavirus. È importante ribadire che non c'è nessun disaccordo tra scienziati, in quanto le nostre valutazioni e i nostri obiettivi sono comuni. D'altronde non potrebbe essere altrimenti tra persone che sanno dove iniziano i fatti e dove finiscono le opinioni. Seguitavano le firme di importanti luminari del professor Dinari, tutti rigorosamente maschi, della cui competenza specifica non potevamo discuterne. Tuttavia, se la loro preparazione epistemologica e filosofica era quella che emergeva dall'ultima frase, condita peraltro da insopportabile presunzione, non c'era proprio da stare allegri. Come aveva notato l'urbanista Enzo Scandamurra, l'epidemia aveva mostrato la fragilità della costruzione neoliberista. La ridondanza e la flessibilità assicurano che se una parte del sistema va sotto stress, per esempio il fegato nel caso del sistema uomo, altre parti del sistema collaborano per attenuare lo stato di stress del sottosistema. I sistemi viventi sono infatti sistemi ridondanti e con notevoli caratteristiche di flessibilità. La flessibilità è il contrario della specializzazione. Tanto più un sistema è specializzato, ovvero basato su un'unica variabile e sull'uso spinto della tecnologia, tanto più sarà fragile e non capace di resistere a cambiamenti imprevisti. Questo è evidente nel caso dell'alta velocità, dove uno scambio mal progettato ha praticamente messo in ginocchio tutto il sistema dei trasporti ferroviari. c'è allora da riflettere su come le nostre città siano sistemi dotati di scarsa flessibilità. Quando si verifica il collasso di uno dei sottosistemi, la sonorità ad esempio, l'intero sistema entra in uno stato altamente critico. Un esempio di parametro che aveva impedito la flessibilità e preparato il disastro era il cosiddetto rapporto deficit-PIL non superiore al 3%. Uno dei più noti dogmi neoliberali, nato in Francia nei primi anni Ottanta, è divenuto una delle pietre angolari del Trattato di Maastricht del 1992. Ogni volta che si affrontava una questione seria si chiedeva la deroga a quel parametro. A riprova che era insensato, del resto, lo avevano ammesso il suo stesso inventore, Guy Abeille. Se mi chiedete se la regola adottata oggi in Europa, secondo cui il deficit di un paese non deve superare il 3% del PIL, abbia basi scientifiche, la risposta subito è no. Perché sono stato io a idearla? Nella notte del 9 giugno 1981, su richiesta esplicita del presidente François Mitterrand, che aveva fretta di trovare una soluzione semplice che mettesse rapidamente un freno alla spesa di governo di sinistra, che nel frattempo stava esplodendo. Così, in meno di un'ora, senza l'assistenza di una teoria economica, è nata l'idea del 3%. Il numero 3, che è noto al pubblico per varie motivazioni, è un'eccezione positiva, se pensa alle tre grazie, ai tre giorni della resurrezione, alle tre Auguste Comte, le tre età di Auguste Comte, i tre colori primari, la lista è infinita, un numero magico, quasi sciamanico, facilmente spendibile anche nel marketing politico. Io vorrei se veramente se questo imbecille ha fatto così le cose e se veramente ha voluto dirle così, perché è intervistato a Sole 24 Ore in data 4/4/2019. Mi viene quasi voglia di aprire il link per vedere se veramente sto cretino ha detto questa cosa, ma non lo faccio per evitare di dover poi sfondare il computer della radio, che poi devo ricomprare io. Vabbè. I dogmi neoliberisti scritti nei trattati europei recepiti dalla legge italiana avevano imposto feticci come il pareggio di bilancio, inserito perfino nella Costituzione. Proprio l'inseguimento del pareggio di bilancio era quello che aveva devastato il welfare state, in particolare la sanità pubblica, che adesso, dopo quasi 30 anni di tagli, si trova incapace di gestire l'epidemia. Così avevano riassunto lo sfascio le camere del lavoro autonomo e precario. Dal 1997 l'Italia ha perso 100.000 posti letto. Tra 2012 e 2017 sono stati soppressi 759 reparti ospedalieri. Ora si diceva che per affrontare l'epidemia bisognava operare in deficit di oltre 7 miliardi, una super deroga giustificata alla situazione. Sì, si potevano chiedere e ottenere deroghe, ma quanto a soluzioni razionali sul lungo periodo c'era poco da sperare. Il servizio sanitario è al collasso, i posti letto sono già finiti. Si parlava di posti letto e di capienza del sistema sanitario come se fossero premesse assiomatiche, un datum quasi immodificabile. E invece, se c'era davvero grande pericolo, allora si sarebbero dovuti mettere in questione anche i dogmi più consolidati. C'era urgenza? Allora che si precettassero le cliniche e gli ospedali privati, quelli che avevano guadagnato dall'aziendalizzazione, privatizzazione e frammentazione del sistema sanitario nazionale. Qualcuno non voleva essere precettato? Requisita la struttura. L'esproprio per pubblica utilità lo prevede anche la Costituzione, che quando parlava della proprietà privata ne limitava i modi di acquisto, di godimenti e i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale. Nell'Italia di un universo parallelo, l'epidemia poteva essere l'occasione giusta, poteva stimolare un'inversione di rotta e ritorno a una sanità veramente pubblica, universale e gratuita. Ma come arrivarci in quell'universo parallelo? Neanche a Reggio Emilia si poteva andare. Piccola pausa in cui ci affidiamo infatti, a Fergi. Come? Devi ripremere il tuo coso. Hello, no. Okay. Se tu hai attaccato un cappello al microfono e parli... Era per farlo il filter, hello, Sanchez. Però mi sa che non funziona. Cioè tu hai inventato un filtro per no, il microfono? No, ero fissato prima come... No, perché tu hai il microfono, c'è il... Parasputi. Parasputi. Certo. Non solo parasputi, per para... anche il fiato, dici, confermo anche il fiato, ho pure questo. Cioè, no, sicuramente. C'è una serie di protezioni tra me e il microfono che fa sì che sia no, un ma meglio. Comunque, tornando del discorso, come fanno... Sì, come facciamo questa lotta se ci permettono di viaggiare, non so... La domanda. Magari possiamo organizzare tecnica vietnamite che fa il buco sottoterra. Vivere come i conigli, sai com'è? I vecchi tempi dei Maoist Group o Ho Chi Minh Group che fanno sotterraneo, underground. Cioè, fanno underground holes and, you know, they build their own houses. They also have their farms there, they live there. It's not very inhumane, but, you know. Cioè, fa parte dell'essere umano. Dobbiamo... Cos'è? Allora, attenzione perché qualcuno mi ha risposto, si vede che qualcuno ha anche il coraggio di ascoltarmi. Attenzione. Avete sentito? Ve lo faccio risentire. No, ecco, questo è un idiota che mi dice Coupe de Tot. E coup d'état? C'è un nano da giardino che sta gira per Zam, che mi fa persino i vocali con le frasi in francese. Grazie, noi rispettiamo sempre i nani da giardino. Ma chi è? Che vuoi che sia? Parla, Fergi. Ma... dici la tua. Sì, tornando... sì, rispondo Ricky. Sì, sono, adesso sono in mode opinionista. Opinionista. Opinionista, scusami. Comunque c'è un ascoltatore abbastanza molesto. Tra poco ti segnaliamo perché veramente hai un po'. Sei un po'. Come dire, un po' addosso. Fergi, non fissare il telefono, di qualcosa. No, perché no, sì, tornando del discorso, guarda. Sempre nel lato positivo, no? Cioè, boh, non lo so, nel mio punto di vista dell'esame, strutturalmente parlando, siamo abbastanza messo bene rispetto al 300 sociale, direi. Che davanti abbiamo il autogestito, diciamo che mezzo sta funzionando, però non ci basta per salvare il culo della nostra comunità, ma possiamo alimentarsi, si può alimentarsi un paio di squadre super militant della zona. Attenzione, nel frattempo ultima ora dal nostro fantastico Di Maiolla: dalla Cina medici esperti, insieme a mascherine e respiratori polmonari, arriveranno dalla Cina anche medici specializzati che hanno affrontato per primi il picco dell'emergenza coronavirus, l'ha detto il ministro degli esteri Di Maio. Non che ai nostri medici serva qualcuno che gli insegni il lavoro, precisa, ma i medici cinesi sono stati i primi e potranno portare la loro esperienza, ha spiegato. Cioè, non mica, quest'uomo veramente, cioè... wow. Siamo uccisi... no, no, non lo dico, che poi diventa brutto, che sembra che... vabbè. E... cioè, torno al mio punto di vista, eccetera. Ha detto il nostro compagno Sushi, torniamo a vivere nella caverna. Why not? Non è male, dai. Cazzo, dopo la scoperta dell'industrializzazione, minchia, sai che cosa? Da quel punto lì, da quell'epoca lì, la umanità è già morta. Già morta, cioè siamo già... we're already dead. Doesn't exist the evolution. Non siamo mai evoluti. Cazzo, non siamo mai evoluti. Intendo la produzione, cioè... non siamo mai evoluti perché continuiamo di we still molesting our women, cioè non siamo mai evoluti, siamo sempre oppresi nelle nostre, non so, parole sante, cioè ok, sappiamo tutti di questa terra, tutte le creature da dove vengono, da dove sono uscite, dalla vagina, sì, per gli esseri umani. Per essere umani, dalla vagina, o da un utero, gli animali. Ma non siamo mai capaci di rispettarla. Io, Fergi, ho un po' paura quando ti lancio nelle tue considerazioni. Perché sono sicuro che ad ascoltarti con attenzione. Ma tu non sei mai capace di piegarsi davanti da dove siamo uscite? Cosa vuol dire? No, devi darle rispetto. Oddio, ragazzi, aiutatemi, non lo so. Compagni, aiutatemi a comprendere il pensiero di Fergi. Non so. Diteci quello che pensate, potete scriverlo sui nostri contatti Facebook. Tra l'altro, io non sto andando a vedere il profilo Facebook della radio da un po'. Potremmo andare. Ma io ho fame, di... però, comunque. Mi sta venendo il fame. Cosa mangiamo? Sono anche le 10:30. E cosa vuoi mangiare? Cioè, abbiamo 10 kg di pasta e 70.000 litri di pomodoro. Il pomodoro mangiarsi per un mese fa bene. Comunque, ricordiamo sempre comunque che manteniamo tutte le distanze di sicurezza, per carità di Dio, siamo sempre a distanza almeno di 4 metri, quando si tratta di farci anche 7-8, perché comunque se te lo tiri lontano fai solo che bene. Andiamo a scrivere qualcosa dalla pagina Facebook di Radio ZAM, che consigliamo a tutti quanti di andare a visitare, perché è un bellissimo posto e soprattutto aiuta a sconfiggere il coronavirus. Oh yeah. qualcuno mi dica. Aspetta. Oh, mi sa che abbiamo anche il su Instagram, eh? Ho appena fatto, non so, da un po'. Va bene, dopo queste brevi interruzioni, mentre forse Fergi va a mettere su un'acqua per una pasta randagia, noi possiamo tornare a leggere. Possiamo tornare a leggere il nostro fantastico diario virale 3. Siamo sempre su Jap, il blog di Wuming. È il 10 di marzo, sono le 22.24. Ci stiamo mettendo un'ora e mezza a leggere un articolo che forse in 15 minuti avete già finito, ma a noi ci piace così. Occupare il tempo, occupare le lettere, occupare tutto, occupare subito. Occupare tutto. Grazie Fergi. Torniamo alla lettura. Occhio poi, occhio poi. I ruzzoloni in borsa. Il 10 marzo Piazza Affari aveva chiuso a meno 9%, e il fatto che molti settori dell'economia fossero in sofferenza veniva usato per dire: avete scazzato analisi, il capitalismo non ci guadagna niente. Chi diceva questo non faceva altro che cadere in balia di due equivoci. Uno, si cambiava l'economia nella sua dimensione contingente per il capitalismo come sistema, e due, confondeva il governo, inteso come la momentanea compagine di politici che ricoprivano gli incarichi ministeriali, con la governance, cioè quell'insieme di strumenti atti ad assicurare la stabilità dei rapporti tra governanti, governati e governate. Più o meno lo stesso errore di quando si confondeva il che tempo fa con il clima e si diceva oggi fa freddo. Dove sarebbe questo riscaldamento globale, eh? L'emergenza consentiva una vastissima speculazione finanziaria. Dall'emergenza estraevano valore le grandi piattaforme come Google, che ne approfittava per prendersi sempre più pezzi di scuola pubblica. Dell'emergenza approfittava l'industria dell'intelligenza artificiale, applicata a sorveglianza e controllo, dalle videocamere smart alle nuove macchine biometriche da usare nei checkpoint al termoscan, che si stavano installando anche nei nostri aeroporti e nelle nostre stazioni, fino ai droni progettati ad hoc per i cordoni sanitari. E come si fregavano le mani gli organizzatori della più grande expo del settore, la IHLS Innotech Expo, che si sarebbe tenuta a Tel Aviv a novembre. Che ha tutto un programma. Mamma mia. Interested in learning more about the application of robotics and AI in the emergency and disaster scenarios? Attendant IHLS Innotech Expo a Tel Aviv, madonna. Sul sito dell'Expo c'erano vari articoli dove si parlava dell'emergenza coronavirus. Uno, ad esempio, la descriveva come una grandissima opportunità per vendere ai governi droni di ultima generazione. L'emergenza permetteva anche di individuare, riconfigurare e controllare meglio i territori, stabilendo quali fossero sacrificabili e quali no. Prima che l'intera Lombardia diventasse una zona arancione e poi tutto il paese zona protetta, c'era stato, per dirla con zone rosse, su Giap, un tentativo di riconfigurare la geografia nel senso di un controllo del territorio che consentisse a Milano e al polo logistico di Piacenza di funzionare a regime coronavirus, sacrificare le province di Cremona e Lodi e parte della Bergamasca per non compromettere la finanza, il flusso della logistica e l'asse Milano-Venezia. Nelle Marche si era deciso di dedicare al coronavirus l'ospedale di Camerino, al centro di un territorio fragile, che già da 4 anni viveva l'emergenza terremoto, senza nemmeno i medici di famiglia in molti paesi. I ricoverati erano stati trasferiti a San Severino e Macerata, i lungodegenti a Cignoli. Ma anche dai territori sacrificabili si poteva estrarre valore. Wolf aveva attirato la nostra attenzione su certi discorsi. Stamattina, alla voce del padrone, Radio 24, un deputato della Lega, che si trovava in zona rossa, non ricordo il nome ma poco importa, proponeva di trasformare le zone rosse in ZES, zone economiche speciali, cioè territori in cui si deroga a normative fiscali, del lavoro, ambientali, a favore delle imprese. Si stavano facendo ipotesi ed esperimenti, caoticamente, alla carlona, scherzando con la catastrofe. Ma intanto si insinuavano idee, scenari fino ad allora impensabili diventavano pensabili e qualcosa sarebbe tornato utile. Toccava ribadirlo, la funzionalità dell'emergenza non era la messa in pratica di un complotto, piano perfetto, bella pensato, volontà del signor capitale, ma era una funzionalità sistemica, parte dell'operatività strutturale del capitalismo ed era sempre l'esito di contraddizioni e conflitti. Per tornare sulle cause sistemiche delle nuove epidemie, da tempo si preconizzava che il surriscaldamento globale, sciogliendo il permafrost, avrebbe risvegliato virus con i quali noi umani non eravamo mai entrati in contatto. Avremmo reagito ogni volta come con questo coronavirus? O avremmo finalmente deciso di farla finita con il capitalismo? In mezzo al campo arato, osservammo il fumo salire denso dal carcere e perdersi nella notte. Sentivamo le urla, gli scoppi dei lacrimogeni, le sirene. Tutto intorno a noi un paesaggio da horror rurale. In lontananza la Basilica di San Luca, sempre illuminata, e più vicino le luci del quartiere feristico. Quel lembo di terra era ancora Bulagna, ma non lo era già più. Da quella spianata rischiarata dalla luna, guardavamo l'immagine mostruosa del paese riflettersi nelle fiamme. Non sapevamo cosa ci aspettava, ma potevamo immaginarlo. Ci sentivamo grati per essere lì, l'uno per l'altro, urticati, infangati e forse persino fuori tempo massimo per saltare canali. Ma c'eravamo, non da soli. Saremmo andati a cercare chiunque non avesse ancora ceduto all'insensatezza. Questo ci avrebbe dato la forza nei tempi a venire, come sempre. E avremmo scommesso ancora sull'intelligenza contro l'idiozia di Stato, la paranoia collettiva, la politica emergenziale. Una volta di più, un minuto di più. In fondo, non c'era mai stato un motivo più valido per fare ciò che andava fatto. E con questo abbiamo finito la lettura dei diari virali, terzo capitolo. Viva il collettivismo! Contro chi sminuisce l'emergenza, dall'1 al 10 marzo 2020. Sono le 22:30 nel secondo giorno di zona rossa, zona arancione, zona Cesarini. E siamo ancora qua. Sempre comunque a 78 metri l'uno dall'altro, onde evitare contagi. Ma questo è il record per me, non so. Comunque mai... questa stanza è malareata, Fergi, quindi io mi alzerò e andrò a aprire la finestra perché hai risaputo che il circolo d'aria uccide i virus. Yeah. Ma comunque parlando di prima, parlando dell'aria... Cioè, non so, ma è possibile chiedere, si può ordinare su eBay? L'aria? No, intendo un prodotto dai su eBay. E in questo Amazon, momento eccetera. Non so come funzioni, probabilmente ancora per oggi o domani sì, da un po' smetteranno di fare le consegne, immagino, spero, lo spero. No, perché non so, il presente quel discorso del ionizer, air ionizer, ci starebbe? O inventare sempre. Tanto Fergi, non è che chi ha la radio non sa. Inventiamo cosa... qualcosa di Fergi, chi ha la radio non sa di cosa stavamo parlando due ore fa. Quindi devi spiegargli cos'è l'ironizer, sennò non si capisce. Allora, l'ironizer è un non so chi ha inventato, però sono un attrezzo, un apparato che è fondamentale in ogni ospedale. Questo ci hanno sempre. E questo apparato qua non è che neutralizza, ma produce un negative ion, ioni negative, in cui cioè, esistono nell'aria, cioè tipo, non so, particles, air particles, che attaccano dei ioni positivi, cioè il, non so, batterie, air bacteria, virus, ovviamente, di qualsiasi... come si dice? How do you say it? Beh, cioè, qualsiasi malattia o batteria nell'aria. E questi ions, negative ions, le attaccano. Le accappiano e diventano polvere per terra e neutralizzano il coso. Perciò che lo tengono in ogni ospedale, cioè se non so se avete notato, no, l'aria in ospedale è abbastanza, è molto diverso, magari è diverso perché si sente l'odore del... Perché c'è il coronavirus negli ospedali. Sì, antivirus tipo. No, niente. Oh, comunque sarà, non per scherzare, ma con la finestra aperta si sta da Dio. Vabbè, certo, mica siamo chiusi da noi, no? Scusa Fergi, come facciamo? Vai. Cosa mangiamo? Cosa mangiamo? Non mangiamo niente. Come facciamo? Tra poco ne andrò a casa. No, allora, scusate, c'è una roba interessante e seria. I compagni e le compagne del dopolavoro Stadera, della gente molto brava e capace di recitare, ha lanciato un'iniziativa su YouTube. La potete trovare come hashtag la potete trovare come hashtag dopo lavorare non stanca. E sono una serie di video prodotti da loro, dove si riprendono recitando, e vi consiglio a tutti quanti di andare perché sono veramente dei contenuti fantastici, loro sono molto bravi. E insomma, sono i ragazzi e le ragazze del Dopolavoro Stadera, che è una compagnia teatrale che è nata e si è formata a Zama, ma poi per fortuna ha preso il decollo molto di più di noi, gruppo di scoppiatoni finto comunisti e falso rivoluzionari, e quindi loro sono delle brave persone molto capaci, con delle letture in cui fanno delle letture riprese dalla propria webcam, cercano insomma di portare un po' di temi di riflessione con il tema e lo schema del teatro. Andateveli a vedere perché ne vale la pena. Dopo Lavoro Stadera lo trovate su Facebook, penso che sia direttamente collegato a tutte le pagine social che ha Zam, la radio e tutto il resto. Guardateveli, sono bravi. Scusami Fergi, ti ho insultato tantissimo, ma c'è Uomini di Mare come prossima traccia, quindi quasi quasi io ti annullerei e direi ascoltiamoci questa bella traccia. Vai. In questo caso ci sono Uomini di Mare, Uomini insieme di mare. A Sutherland Squad, un po' tutta l'Europa che rappresenta, o no? Senigallia, Baglia, Maglia, col suo splendore ti tiene sveglia, sti tipi fan troppo rumore. Mi meraviglia, ci si ripiglia con questo calore. Passano in un attimo sul treno le ore. E che fatica mai sarà uscire dalla propria città, scambiarsi un po' della propria... Vogliamo l'occasione a questo punto per chiudere la registrazione, perché stiamo registrando tipo da 7 ore. È stato bellissimo stare con voi. Tra l'altro che ci sentiamo comunque, ma andiamo in diretta. Ciao.